Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, nonché naturalmente la app che potete scaricare dal nostro sito, con la quale potete ascoltarci in tutto il mondo e a qualsiasi ora del giorno. Mercoledì 10.30 del mattino, come quasi sempre, poi vi dirò perché il quasi, va in onda Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo di ogni genere e di ogni età. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità, oggi è una novità un po' particolare. Premetto subito che la novità che vi propongo era già in programma, purtroppo però è diventata molto di attualità perché il titolare di questa novità odierna è David Crosby, che come sapete è venuto a mancare la scorsa settimana. È una grave mancanza per quel che riguarda la musica rock. Il suo ultimo album è un album live, si chiama Live at the Capitol Theater ed è accreditato, oltre che a David Crosby, alla Lighthouse Band, che è la band che da qualche tempo l'accompagnava, una band prettamente acustica, senza batteria, basso acustico e cose del genere, che fra parentesi vede al proprio interno anche Michael League, che è il bassista nonché leader di quella splendida band che risponde al nome di Snarky Puppy. Ormai avrete letto tutto sui giornali anche non musicali riguardo David Crosby, per cui non mi dilungherò. Dirò solamente che ha fatto la storia della musica rock, prima con i Byrds e poi con Crosby, Stills, Nash & Young, e un po' meno la storia con la band che fece insieme a suo figlio Jeff Raymond, la band si chiamava CPR, e poi da sempre con la propria carriera solista che gli ha dato tantissime soddisfazioni. Questo appunto è il suo ultimo album, è stato registrato al Capitol Theater di Port Chester nello stato di New York, è un CD più DVD, è stato registrato l'8 dicembre del 2018, quindi oramai quattro anni fa. E passo un po' in rassegna tutta la sua carriera, però dando più spunto, diciamo più risalto alle ultime cose della sua carriera. Infatti i pezzi vecchi non ce ne sono tantissimi, comunque ce l'andiamo subito ad ascoltare, non senza prima avervi ricordato appunto la Lighthouse Band, che vede Becca Stevens, Michelle Willis e Michael League appunto giostrarsi fra chitarre e tastiere. Fra l'altro Michael League suona pochissimo il basso in questo album, suona molto la chitarra acustica e qualche volta la chitarra elettrica. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo che si chiama By the Light of the Common Day, alla luce del giorno comune, David Crosby and the Lighthouse Band. By the light of common day, things look different than they did in the started dark. The dark was warm and clouded. It was easy to deceive yourself and those around you in the world. To say the craziness and pain, the spreading of the stain, is exactly where you gained the spark to make it. As if being happy isn't quite enough, somehow I needed to make it rough. Raise its voice and then raise yours. come sempre atmosfere molto intimiste per quel che riguarda David Crosby. Il suo ultimo lavoro live, The Capitol Theater, è molto tranquillo, molto pacato. Lo dimostra anche, come dicevo in precedenza, il fatto che non ci sia una sezione ritmica canonica, nel senso di metronomica, per meglio dire. E ci sono quattro musicisti che si scambiano gli strumenti a corda e il pianoforte e danno vita a una cosa molto molto tranquilla, molto intimista, come è nella tradizione poi di David Crosby, che esordì tantissimi anni fa con un album bellissimo che si chiamava If Only Could Remember My Name, e lui ha proseguito su questa scia, pur avendo anche nel proprio repertorio delle canzoni molto elettriche tipo Wooden Ships o tipo Deja Vu. E questo pezzo si chiamava By the Light of Common Day. It's weathering your skin. Come vi dicevo, questo album è stato registrato al Capitol Theater di Port Chester, nello stato di New York, un teatro che ha una capacità di 1800 persone sedute tranquillamente. Fra l'altro Port Chester è una cittadina una settantina di chilometri a nord di New York City, con di 29.000 persone all'incirca. Fra parentesi, questo Capitol Theater, che è stato costruito nel 1926, è stato iscritto nel registro degli edifici storici americani nel 1984. Dirò tranquillamente che appunto il Capitol Theater è stato costruito nel 1926, come vi dicevo. Casa mia è stata costruita qualche anno dopo, quindi magari fra un po' anche la mia potrà essere un edificio storico, no? A parte gli scherzi, ci sono tantissimi Capitol in giro per il mondo. Ne avevamo uno anche qua a Bologna, poi sapete tutti la storia, non si sa mai se e quando riaprirà, più o meno come Metropolitan. Comunque qui sto andando in un campo che non è il mio. Rimaniamo nel campo musicale e ci ascolteremo qualcosa da tanti di questi Capitol. Ad iniziare rimaniamo però a Port Chester con una registrazione effettuata tantissimi anni fa da una band che si chiamava Grateful Dead. Siamo nel 1971 e in quegli anni praticamente il Capitol Theater di Port Chester era la casa della costa East dei Grateful Dead. Ci hanno suonato tantissime volte, quasi tutte come sempre sono state registrate, e questa che ci andiamo ad ascoltare, che è del 21 febbraio 1971, è stata inserita nella ristampa di un album che si chiama Working Man's Dead, che è uscito qualche anno fa. Per meglio dire, la versione originale è uscita nel 1970, invece la riedizione tripla con due dischetti dal vivo nel 2020. Ci andiamo ad ascoltare uno dei classici dei Grateful Dead, si chiama Tracking. Out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's on the same street. Your typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a salt machine. Houston did close to New Orleans. So New York got the ways and means, but just won't let you. Streets think of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta be going out of the door and down to the street all alone. her sparkle, you know she isn't the same. Mineral rents and vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Working up to Buffalo, I've been thinking you got to mail up slow. It takes time, you pick a place to go. They're gonna kick the door in again. I like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, set up like a bowling pin, knocked down, gets to wearing. I guess they can't provoke your soul for trying. Get out of the door and I'll look around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me. We'll be right back. without a word to a mother say, mother she went upstairs to say, where's my daughter? Questi erano i grandi Govmule, anche loro hanno un album, anzi due addirittura, registrati al Capitol Theater. Infatti in contemporanea uscirono due album che si chiamano Bring On The Music, Live at the Capitol Theater, due doppi album, uno ha anche allegato un DVD con però setlist diverse, con brani diversi, contenuti dall'uno all'altro. Govmule, come ben sapete, uno dei miei gruppi preferiti, quindi non starò a osannarli perché sono veramente tostissimi. Railroad Boys si chiama il brano che ci siamo ascoltati. Si chiamano tuttora New Riders of the Purple Sage, una band che nacque nel 1969, si è sciolta, rimescolata, cambi di formazione a go-go da quel 1969, però sono arrivati fino ad oggi. anche se l'unico membro originale è David Nelson, il chitarrista. New Riders of the Purple Sage nacquero come divertimento, diciamo così, di Jerry Garcia. Infatti anche in questo album compare il buon Jerry, e fra parentesi erano talmente legati ai Grateful Dead che alcuni dei Grateful Dead appunto suonarono spesso con i New Riders of the Purple Sage, e addirittura questa band apriva moltissimi concerti dei Grateful Dead, fra cui quello che ci siamo ascoltati prima del 21 febbraio 1971 al Capitol Theatre di Port Chester, che come in questo caso abbiamo ascoltato Fair Chance to Know. Come vi dicevo, ci sono tanti Capitol in giro per il mondo, sono essi theater, center, cinema, e c'è un fratellino, c'era anzi un fratellino di questo di Port Chester, un po' più a sud di New York stavolta, siamo nel New Jersey, a Passaic, e anche qui sono stati registrati un sacco di album, però questo di Passaic non ha resistito al tempo, è stato venduto prima, poi abbattuto, e adesso al suo posto c'è un condominio. Però intanto ci ha lasciato dei buoni ricordi, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, un paio di band britanniche per omaggiare questo Capitol Passaic New Jersey, a cominciare dai Procol Harum. Pardon. Somebody say something. Nick. Thank you. let's get this place moving a bit. Until the morning comes, I can't tell the look in your eye. Just won the super prize. Shake a love tonight. Gonna shake a love tonight. Gonna jump and shout. Gonna smash your mic. Gonna shake a love tonight. Shake a love tonight. Shake a love tonight. Gonna jump and shout. Gonna smash your mic. Gonna shake a love. In origine nel 1967 si chiamavano Chicago Climax Blues Band, poi accorciarono il nome semplicemente in Climax Blues Band, anche perché loro venivano da Stafford in Gran Bretagna, non da Chicago. Come dicevo, sono attivi dal 67 e tutt'oggi sono in giro e pubblicano album, anche se non c'è più nessuno dei membri originali. Il brano che ci siamo ascoltati, che è stato registrato al Capitol di Passaic nel New Jersey, è stato registrato il 26 aprile del 1974 e fa parte di un triplo dischetto molto interessante che si chiama Live Rare and Raw, che consiglio caldamente agli amanti del genere. Loro si chiamano, come dicevo, Climax Blues Band. Andiamo nel Maryland, a Largo, detta l'italiana, credo che americana si dica Largo o qualcosa del genere. dove c'è un Capitol Theater anche lì, dove sono stati registrati diversi album. Uno in particolare, quello che vi voglio proporre, che ha bisogno di una piccola introduzione. Nel 1979 il buon Ronnie Wood di Faces e Rolling Stoneiana memoria pubblicò un album che si chiamava Gimme Some Neck, e per promuovere l'album assemblò una band che durò pochissimi tempo, chiamando alcuni amici che rispondevano al nome di Stanley Clark al basso, Ian McLagan dei Faces alla tastiere, Bobby Keys al sax, praticamente un Rolling Stone ad honorem, e Zigaboo Modalist, il batterista dei Meters, e l'amico di sempre Keith Richards la chitarra. Quindi una super band che chiaramente durò pochissimo, giusto il tempo di una serie di concerti e un paio di album live, fra cui questo che si chiama Buried Alive, che è stato registrato il 4 maggio del 1979 all'Ergo in Maryland. Il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama Mystify Me, loro sono New Barbarians. For Si sono chiamati New Barbarians, i nuovi barbari. In realtà era un super gruppo che accompagnava Ronnie Wood per promuovere un suo album solista. E come vi dicevo, siamo nel maggio del 1979. L'album si chiama Buried Alive e il brano in particolare era Mystifies Me. Ce ne sarebbero ancora tanti Capitol in giro per il mondo. Ce n'è una a Sydney, dove c'è una splendida registrazione di un brano dei Cure che si chiama Faith, ma durava più di 10 minuti ed era un po' negava l'ascolto di altre cose. Ce ne sono a Concord Hill nel New Hampshire e strano a dirsi, a parte quello a Bologna che però è un cinema, strano a dirsi ce n'è uno anche ad Aberdeen in Scozia, Gran Bretagna per essere più precisi al momento. E in questo Capitol di Aberdeen hanno suonato diverse volte gli Steve Little Fingers, che è una band che viene dal Nord Irlanda, da Belfast in particolare, che è attiva dal 1977. L'unico membro originale però è rimasto Jack Barnes, chitarrista e cantante, che ha il vezzo di licenziare i propri musicisti via fax una volta, magari adesso via email, però non deve essere un personaggio facilissimo. Fra parentesi, il bassista attuale, che è Ellie McMurdy, era anche il bassista originale, se n'è andato ed è tornato diverse volte. Un singolo del 1980, del febbraio 1980, che si chiamava At the Edge, vedeva sul retro due brani. Uno è un brano natalizio, si chiama White Christmas, me lo farò ascoltare magari a tempo debito, ma l'altro brano invece è quello che ci andiamo ad ascoltare e che conclude questa prima parte di Città Fuggicola e Club. Il brano si chiama Running Bear, Steve Little Fingers. You're a little white girl. L'unica cover presente nella novità che vi propongo quest'oggi, novità naturalmente, come vi ho già detto, David Crosby nel House Band Live di Capitol Theater, e l'unica cover è quella che conclude questo dischetto, è un brano di Joni Mitchell che si chiama Woodstock, che è un brano famosissimo della cantante canadese, però è diventata molto più famosa in altre versioni, fra l'altro anche quella di Crosby, Stills, Nash & Young. E fra l'altro, fra parentesi, l'ironia della sorte è che Joni Mitchell non andò a Woodstock perché il proprio manager, il suo manager, disse che non era il caso, che era una cosa per pochi intimi. Come vi dicevo, una cosa molto intima, questo album che è stato registrato al Capitol Theater da David Crosby e dei suoi accoliti, ma molto molto intrigante. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e gennaio comincia a rifarsi, nel senso che fino ad ora i giorni sono stati abbastanza scarsi per quel che riguardava le registrazioni. Invece in questo giorno, in questo 25 gennaio, ci sono veramente tantissime cose, ma come sempre il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E oggi ne abbiamo ben sei, per cui iniziamo subito dall'inizio, dal 1969, con una band che molti di voi conosceranno nella propria versione americana. In realtà loro sono nati a Londra nel 1967, hanno cambiato formazione diverse volte, fino a che gli unici due rimasti, cioè la sezione ritmica John McVie e Mick Fleetwood, hanno pensato bene di emigrare negli Stati Uniti e raccogliere altri personaggi, tipo Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, naturalmente il tutto corredato da Christine Perfect McVie, che era il tastierista moglie di John McVie, ma non inserita come membro stabile all'interno della band, lo diventò solamente nella versione americana. E però Fleetwood Mac ebbero un grande successo come blues band negli anni 60, capitanati da Peter Green, e qui ne abbiamo una dimostrazione: un loro tour americano registrato allo Shrine Center, sarebbe meglio dire, di Los Angeles, e che vede in scena ben tre chitarristi nella formazione che preferisco dei Fleetwood Mac, con questi tre chitarristi capitanati naturalmente da Peter Green. Ce l'andiamo ad ascoltare, era il 25 gennaio del 1969, questo è uno dei grandi classici dei primi Fleetwood Mac, si chiama Albatross. Yeah. E questi erano i primi Fleetwood Mac, come vi dicevo, band che ha avuto molto successo nell'ambito blues rock britannico degli anni 60, band che era capitanata da Peter Green, grande chitarrista, e poi si è perso un po' per strada con grossi problemi di droga e tutto quello che ne consegue. Però il brano che si chiama Albatross era uno dei loro successi della prima epoca. Forse direte voi, i più attempati di voi diranno un po' troppo Santo e Johnny, ma sicuramente un gran bel brano che si chiama Albatross, 25 gennaio 1969, Shrine Auditorium di Los Angeles. How many times must I be the fool before I can make it, I've got to find a place to sing my words. Is there nobody listening to my song? We'll be right back. bitches. You're fine, so kind. Wanna do a swirl with your mind. All'inizio della propria carriera c'è stato qualche problema a far partire questo brano, ma alla fine il lettore CD ha fatto il suo lavoro e quindi ce lo siamo ascoltati. Comunque, dicevo, all'inizio della propria carriera Electric Light Orchestra non era la pop band conosciuta in tutto il mondo come negli ultimi anni, ma era una band che sperimentava, cercava di unire la musica classica, aveva violini e violoncelli all'interno del proprio lineup e appunto la musica classica con la musica rock, e questo medley un po' azzardato, se vogliamo, però ne era la dimostrazione più completa. Infatti la prima parte del medley si chiama In the Hall of the Mountain King ed è tratto da un'opera del musicista classico, compositore classico norvegese che si chiama Edvard Grieg, ed è una parte della Peer Gynt Opera, uno dei grandi classici di questo grande compositore. Il secondo invece è un compositore più moderno, Great Balls of Fire, la conosciamo tutti, e appunto dimostrava questa volontà di mettere insieme sia la musica classica che la musica rock. Poi dopo, col passare degli anni, Jeff Lynne, che è rimasto l'unico membro originale della band e che era il leader della band, ha virato un po' più verso il pop. Ha venduto miliardi di dischi, oserei dire, ma la musica era veramente molto cambiata. Tutto questo era il 25 gennaio 1974 a Golders Green Hippodrome di Londra. Golders Green è un sobborgo di Londra dove c'era questo ippodromo, questo locale che si chiamava così, e nel quale hanno suonato veramente tantissimi musicisti. Lo trovate in un album della serie BBC Live in Concert, ed è molto bello questo doppio dischetto perché questa parte che ci siamo ascoltati è registrata nel 1974, la seconda parte invece è registrata nel 1976, e in questi due anni c'è tutta la differenza fra la prima parte della carriera della band e poi quella successiva che ci siamo che vi ho detto, molto più pop, molto più conosciuta e molto più popolare. 1983, grande personaggio, grande chitarrista Gary Moore, uno di quelli che ci ha lasciato troppo presto e che ha avuto una carriera un po' altalenante. Infatti è passato da musicista molto, molto aggressivo, molto, un po' troppo forse, a musicista blues negli ultimi anni della carriera, secondo me è la parte migliore, anche se molti invece indicano la parte degli anni 80, quella più rock, quella più heavy, e la sua miglior prestazione. Qui abbiamo un album che è stato registrato in Giappone e che appunto fa vedere il Gary Moore più rockettaro, più duro, più potente. Non a caso il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato il 25 gennaio appunto del 1983 e che è stato pubblicato come album in vinile, naturalmente Live in Japan solamente è stato pubblicato nel 1983, ma poi in realtà è stato poi pubblicato anche in Europa nel 1986. Ce l'andiamo ad ascoltare, il pezzo è già tutto un programma, il titolo si chiama Nuclear Attack, Gary Moore. going to continue with another song from our Feel Good Factor album. This one's called Tanqueray. Baby, just hear what I'm gonna say. drink of Tanqueray. È dedicato una nota e buonissima a Mark D. Gin, questo brano, non a caso, scritto da Keith Richards, si chiama Tanqueray ed è eseguito nell'occasione che ci siamo ascoltati dai Dr. Phil, scusate, e l'album si chiama Down at the Doctor, è stato registrato appunto in questo locale che era di proprietà di Libre Law, il cantante dei Dr. Feelgood. È stato registrato il 25 gennaio del 1993. L'album si chiama Down at the Doctors ed è caratteristica di questa super band, super nel senso che era veramente una grande band che purtroppo è misconosciuta e più, anzi direi proprio sconosciutissima. And he's calling out your name. Da Canvey Island, dove era situato questo Dr. Feelgood Bar, andiamo più su, andiamo a Glasgow, insieme a una band che ha molte ascendenze celtiche, tanto che in molte occasioni, soprattutto all'inizio della carriera, i testi delle proprie canzoni erano in celtico. Ma attenzione, ho saputo questa distinzione da poco, nel celtico scozzese. Ci sono diversi tipi di lingua celtica, appunto loro, essendo scozzesi naturalmente, parlavano lo scozzese. Si chiamavano Runrig e arrivavano dall'isola di Skye e sono stati attivi dal 1973 al 2018, fondati dai fratelli McDonald, Rory bassista e Callum batterista. Però il più famoso di tutti poi è il frontman, divenne Donny Murro, che ha lasciato la band prima dello scioglimento nel 1997 per darsi alla carriera politica che gli ha dato qualche discreto successo. Ci andiamo ad ascoltare questo album che si chiama Live the Celtic, anzi Celtic come dicono loro, Connection 2000, appunto registrato in quell'anno, l'anno 2000, il 25 gennaio, da parte dei Runrig. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama, guarda caso, Big Skye. The light is on me, all time is here. I'm going down the clock, stem the Russians. Big sky above me, power lines overhead. I get lifted up in rapture, keep falling out your feet. I'm looking over color fields, past the white sands and our human roots. And it's all waiting here, breaking the sea. It's coming again, gathering wind, returning to claim the heart. Back in the old sewers, get out there, I'll show you how to get it. a job of Kulukaki and Est. See the stay then, care to the neck, the Yaland, the Grokini, Lokanesh, and Savaru the Himishkar the Yorick. Went through the barley, the early dreams, the rising choir of birds song your fields. Candles waiting at the gates. I'm living on the borderline between the moments and the shining light. The far stretching stones are the lines of the soul. It's come. The heart. Si chiamavano Run Rig, venivano dalla Scozia e lassù erano veramente considerati un mito, una grande band con un pubblico vastissimo, affezionatissimo, uno zoccolo duro, come si suol dire, di tantissime persone. Ci sono diversi album live di questa band e molte canzoni di questi live il cantante non canta neanche, il pubblico canta tutte le strofe delle canzoni ed è una cosa molto coinvolgente. Qui invece siamo su questo album che si chiama Celtic Connection Live at Celtic Connection 2000, è stato registrato a Glasgow il 25 gennaio dell'anno 2000. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Big Sky. L'ultima cosa di Record Today di oggi combacia con l'ultima cosa di Città Fujiko Life Club, è un pezzo che viene dal 2012, ma ne parlerò dopo perché prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati appunto Città Fujiko Life Club, Nevio al microfono per un paio di ore di musica dal vivo come quasi tutti i mercoledì, ho detto già in apertura, lo ribadisco, perché per due settimane non sentirete la mia voce dal vivo, ci saranno le registrazioni, perché mi permetto un piccolo viaggetto a vedere il primo concerto del tour 2023 di Bruce Springsteen e della E Street Band. Quindi due settimane senza di me, resistete per favore, perché ci sentiremo fra 15 giorni, fra 21 a dire il vero, per un nuovo inizio di questo anno 2023, un nuovo inizio appunto di Città Fujiko Live Club, il tutto da Radio Città Fujiko da Bologna, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica e naturalmente tutto sul web. Se proprio non potete fare a meno della mia voce, potete andare sul sito della radio, radiocittafujiko.it. Nella sezione podcast ci sono anche tutti i miei podcast dell'ultimo anno e anche quelli di quest'anno. Per cui vi ringrazio per l'ascolto, vi voglio solamente dire che ci ascolteremo una cover per concludere, una band che si chiama Widespread Panic, una delle migliori jam band in circolazione, inizia il proprio album che si chiama Wood con un brano che è stato registrato il 25 gennaio 2012, è un brano che è stato scritto da John Lennon e fu il primo singolo dopo suo singolo dopo lo scioglimento dei Beatles. Si chiama The Ballad of John and Yoko, loro sono Widespread Panic, il tutto 25 gennaio 2012. Ciao a tutti da Nevio. Chance. to be